un programma di Francesco Rigoni e Stefano Giacchè. Giochi di tutto. Tutto col gioco e niente per gioco. Caro Stefano, ciao, buonasera. Ciao Francesco. Capire se siamo in onda, sì, siamo in onda con la quinta puntata di Giochi di tutto 2026, 13 gennaio 2026, quindi cominciamo anche questo viaggio, continua nel nuovo anno, sono le 19.02 e... Quindi di fatto stiamo a metà percorso. E iniziamo la puntata che in qualche modo ci fa arrivare a metà del nostro viaggio, perché noi ci siamo lanciati un po' la scommessa di riuscire a fare 10 episodi e poi vedere che fare poi. Siamo al quinto, è passato un po' di tempo, però ricordiamo che nella quarta puntata abbiamo parlato della tua esperienza all'Italia, l'ARP Festival, che ha avuto luogo a inizio dicembre. Abbiamo parlato dei giochi a cui hai giocato e all'attività che hai seguito. In questa puntata, giusto appunto come stavamo dicendoci in fuori onda prima di entrare, mi piacerebbe molto poter fare, come dire, un lavoro di tipo diverso. Ovvero, beh, innanzitutto come va? Guarda, tanto chi ci ascolta non si preoccuperà. Dai, diciamo comunque bene, nonostante tutto, vengo da 2 giorni in cui ho fatto una conoscenza più approfondita del mio bagno. Quello. Sì, diciamo che il 2026 lo abbiamo, come dire, salutato con un, come dire, con un ampio spettro di sintomi influenzali. Ormai io ho fatto parecchie dirette in questi giorni, e ormai chi ascolta in diretta e in differita sa che sto affliggendo il microfono di tosse, però insomma... Siamo cocciuti, siamo determinati e quindi neanche questo ci potrà fermare. Neanche l'Inps. Io, come dire, poi alla fine, prima nel fuori onda, non come al solito non ti ho manco lasciato rispondere, ma volevo chiederti se nella tua attività di giocatore, dall'ultima puntata a oggi, c'erano state delle altre esperienze, delle altre novità, qualcosa di cui hai voglia di parlare. Ma guarda, più che novità, diciamo che ci sono due cose belle che sono successe e stanno per succedere, cioè il fatto di avere potuto assistere a una proiezione privata di un documentario a quanto pare ha cominciato ad avere un po' più di diffusione anche in Italia, questo sia grazie, come sempre, alla Chaos League, ma anche grazie a Francesco Rugerfred Sedda, che ne ha parlato nel suo podcast Play Journal e poi l'ha proiettato proprio a Torino, ed è Fighting Demons with Dragons, che è questo documentario realizzato direttamente dalla scuola danese, unica scuola in Danimarca a utilizzare l'ARP ufficialmente come strumento educativo. Okay. Quindi questo è sicuramente una roba per la quale vale la pena spendere 2 parole, perché poi chiaramente quando l'abbiamo potuto guardare c'erano in molti con gli occhi veramente a cuoricino, inevitabilmente, ed era è stata un'esperienza molto intrigante. Ovviamente visto che ho fatto il passo anche nella parte del docente nel frattempo, la cosa che viene proprio da dire è, vabbè, ti piace vincere facile perché hai dei ragazzi per tutto il giorno, perché alla fine funziona come una sorta di collegio, e quindi hai la possibilità di sfruttare tempi molto più dilatati. Infatti, l'idea che abbiamo avuto era questo immenso campo scout che dura diversi mesi. Beh, allora, io tra l'altro avrei voluto andare a vedere appunto a Torino Fighting Demons with Dragons. Poi la vita, come dire, mi ha detto che era meglio se invece no, se invece lasciavo perdere. E, però, appunto, ho visto il trailer, mi sono informato e, come dire, per dovere di cronaca, diciamo che è il documentario che racconta come un'attività di gioco di ruolo dal vivo di LARP attivata in una scuola danese, adesso non mi ricordo, è una scuola superiore perché mi sembra di aver capito che sono ragazzi Sì, di mi 17-18 anni, quindi ragazzi anche grandi, confermo. di come questa attività di LARP abbia impattato sulla vita in particolare di tre ragazzi che vivevano ciascuno, diciamo così, le loro difficoltà del coming of age. E per dovere di cronaca specifico anche che appunto Stefano è insegnante, è diventato insegnante e che appunto nel senso quindi come dire vedere come in Danimarca possano fare il gioco di ruolo dal vivo così in una scuola immagino che faccia impressione rispetto a quello che si può e non si può fare in un contesto italiano, anche se devo dire che c'è come dire un tema, un sottotema che non conoscevo rispetto allo stare, all'essere insegnanti al giorno d'oggi, nel senso che c'è una cura, Ah, un'attenzione al benessere psicofisico dello studente che forse ai nostri tempi, ma manco c'era proprio come idea, cioè una cosa completamente nuova. Quanto ho capito, i docenti assolutamente. parlano molto di più con gli studenti. E cosa ti ha colpito? Cioè, che cos'è che dice questo documentario che è forte, che in qualche maniera ti fa dire. Tra l'altro, devo dire la verità, pensavo fosse una produzione molto più amatoriale. Quando ho visto il trailer sono rimasto colpito. È proprio un documentario vero, serio, fatto bene. Almeno dalle immagini che ho visto io. Comunque, Ma dimmi. allora, in realtà devo dirti la verità, ovviamente il fatto di avere questa struttura così anche fornita, il fatto che i ragazzi restino per anni all'interno di questa struttura. Che tanto ho recuperato anche il nome, è la Österskov Efterskole, ed è quindi chiaro, una struttura che non riesci del tutto a immaginare all'interno di un altro contesto. I ragazzi che vengono seguiti dal documentario, come hai detto giustamente tu, è molto più un racconto del loro coming of age, e quindi è più un ammirare i passi che fanno, non si ha un'idea molto approfondita, chiaramente, né dei giochi in sé, se non per sprazzi. E chiaramente anche dei ragazzi si ha dei piccoli momenti, soprattutto anche di condivisione di quello che è la loro essenza. La cosa che mi ha impressionato comunque è che poi tutto sommato gli insegnanti non siano, dal mio punto di vista, stati così tanto presenti all'interno delle loro vicende. Le vicende sono molto sui ragazzi, come è giusto che sia. Sicuramente non si vede tutta una sorta di dietro le quinte, quindi né la preparazione più di tanto. Cioè, in qualche cosa sì, però non c'è tantissima attenzione alla preparazione del gioco in sé. Ci sono molti momenti in realtà di confronto, sia sul gioco e poi ovviamente sul debriefing. Quindi è più questo tipo di aspetto, il che mi fa dire, se ci fosse tempo a sufficienza per stare con i ragazzi, penso che non ci sarebbe niente di strano a farlo anche in Italia, tant'è che in realtà so che c'è qualcuno che ci riesce anche a fare delle proposte di un certo tipo, anche in Italia. Chiaramente non in una situazione dove hai i ragazzi un'ora, al massimo 2 ore. Certo. Anche Tempo di perché preparazione. in realtà tu mi dai un gancio strepitoso per iniziare questa puntata perché ci siamo, diciamo così, abbiamo approfondito la conoscenza di un documento che sto andando cercando nel mio computer e giustamente, figurati se me lo tenevo aperto subito, che si chiama Developing Empathy Through LARP, che è sostanzialmente in realtà è un report realizzato da Chaos League, Arcigay Palermo, Nausicaa, che non sono sicuro di che cosa sia, e Live Werkstatt, che credo sia, tra l'altro, così a occhio e croce direi che sono studi sulle attività dal vivo, qualcosa del genere, studi sulle arti performative. Comunque è un progetto che è stato portato avanti per raccontare appunto i diritti nelle differenze di genere attraverso il gioco dell'ARP, attraverso un progetto finanziato dalla comunità europea, la cosa in particolare dall'Erasmus+, la cosa veramente forte di questo documento è che per molti aspetti è una sorta di mini manuale su come si fanno i LARP, perché non soltanto, sì, c'è la parte dedicata all'empatia, ma c'è la parte anche dedicata al design. Quindi, se una persona mastica l'inglese e vuole conoscere l'ARP, sia nella sua... Scusami, tra l'altro, perdonami, stavo guardando il documento, quindi magari mi hai visto un po' Ma figurati, assente nella webcam. ci sta, ci Comunque, sta, ci sta. l'idea è, se uno vuole conoscere l'ARP e mastica l'inglese, non conosce il mondo dell'ARP in generale, perché magari conosce, come dire, appunto, questo aspetto dell'ARP dove l'ARP si butta nei temi dell'attualità e appunto della relazione, come dire, dell'apprendimento di competenze relazionali, però nel frattempo entra dentro tutta una serie di concetti che adesso sono riuscito a fare tutto il giro, finalmente posso dirlo. Sono un po' la cosa interessante che volevamo un po' più approfondire oggi, ovvero hai detto nel documentario che il documentario si concentrava molto sul gioco e sul debriefing, perché, come abbiamo già visto, in realtà i LARP hanno una struttura piuttosto ampia, nel senso, cioè, giocare è solo un pezzo del lavoro. In realtà c'è un pre e un post gioco che sono molto importanti, fondamentali, mi viene da dire quasi più importanti del gioco stesso. Esagero. Però senza i quali il gioco non avrebbe alcun senso, anzi, forse sarebbe anche pericoloso. Nella parte educativa, senza ombra di dubbio. E poi è innegabile che l'esperienza vera sia quella del gioco, quindi senza di quella non si va da nessuna parte. Certamente. Però sì, è chiaro che ci deve essere assolutamente sempre un bilanciamento tra tutti i momenti. La cosa che secondo me era interessante era anche l'aver voluto trasmettere attraverso il LARP, e si vede all'interno del documentario in un paio di occasioni, e anche diciamo, conoscenze tradizionali. Quindi, per esempio, compare in un paio di scene il fatto che debbano sfruttare conoscenze di fisica o di chimica e che quindi anche la lezione faccia parte a sua volta di un momento all'interno del gioco stesso. Ma quindi in questo progetto di LARP, in questa scuola danese, i docenti giocano o sono... Cioè, che I ruolo docenti hanno? sono dei LARPer, ma sono anche docenti. Diciamo Ok. nella visione classica che possiamo avere noi. Ecco. Quindi Però sì. non c'è un LARPer esterno, perché io avrei immaginato un No. esperto di LARP che viene e ti fa fare l'attività a cui i docenti partecipano in qualche misura. Anch'io mi sarei Ah. aspettato qualcosa del E genere. invece qui coincide, il docente coincide. Guarda caso, il professore di mate è pure un LARPer. Sì, infatti poi quando l'abbiamo guardato so di gente che appunto veniva riconosciuta, Ah, non ok. direttamente da me perché non li conosco, però sì, c'era sicuramente più di qualcuno che era palesemente noto. Ah, ok, quindi come dire, anche pezzi grossi del mondo LARP, perché poi stavamo appunto parlando fuori onda che il LARP non è un caso che che questi documenti, che comunque questi approfondimenti vengano attraverso esperienze svolte nei confini dei paesi nordici, perché c'è molta letteratura e molto studio su queste discipline proprio provenienti da Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia. L'Università di Uppsala c'ha delle pubblicazioni proprio dedicate, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, tant'è che poi tu hai avuto modo anche di incontrare Cosmo Esposito a zona WARP Che a salutiamo Torino. caramente, veramente una Lo persona salutiamo squisita, perché una persona sì, squisita. decisamente appunto ha fatto, non mi ricordo se solo la tesi, no, non solo la tesi. Ha avuto sicuramente un periodo abbastanza lungo all'Università di Uppsala, quindi ecco, Voilà. direi che non sia un caso da quel punto di vista. No, ma Comunque, è in generale un mondo, quello nordico, che ha sviluppato tantissime tematiche profondamente legate alla trasmissione. Il fatto che poi sia... Tant'è che non è un caso che, per esempio, lo Knotenpunkt è il raduno più importante di LARP in Europa, ma mi verrebbe da dire anche al di fuori dell'Europa, e guarda un po', appunto, si svolge in Scandinavia. Nessuno stupore in questo. Di e due, ecco, sì, no, il prego, prego. fatto è che... No, scherzi. No, il fatto è proprio che ci sono in realtà esperienze che vanno ben al di fuori del solo ambito nordico. Anzi, il fatto stesso che si sia proprio voluto a un certo punto definire il Southern Way of LARP, in cui appunto la Chaos League è stata proprio quella che portava avanti questo tipo di discorso e di narrazione. La menzione del documentario Fighting Demons with Dragons, che è anche un gioco di parole che poi uno deve abituarsi a mettere i sostantivi nel punto giusto, perché altrimenti invertendoli si fa un casino, ci dà l'opportunità in realtà di immergere ancora più le gambe in un aspetto, in un mare molto, molto vasto, che è la ragione principale per cui mi sono riaffascinato alle attività ludiche, e che in qualche modo in realtà disegnano un arco abbastanza ampio, per cui poi ritroviamo il LARP in situazioni belliche importanti, perché appunto, come abbiamo raccontato la volta scorsa, all'Italian LARP Festival c'era, non so se una o due, perché sono due sorelle, mi sembra aver capito, due importanti LARPer palestinesi che stanno portando avanti una loro attività anche nelle zone dell'invasione. Ma ho avuto modo di leggere, Leggere un parolone. Ho scoperto che in realtà ci sono attività di LARPA anche in Ucraina e mi colpisce molto perché queste attività fanno il paio con quelle che io so si stanno svolgendo o si cerca di svolgere, perché poi sono situazioni molto estreme in cui, come dire, è anche difficile organizzare logisticamente queste attività. Anche il mondo dello psicodramma sta cercando di attivamente contribuire in qualche maniera all'evoluzione, al confronto e all'elaborazione degli eventi molto forti che chiaramente impattano sulle persone in quei territori. E questo perché appunto l'ARPA ha una qualità che, come dicevamo fuori onda, ci siamo fatti una lunga chiacchierata prima di entrare, incastrano il LARP a metà strada tra il teatro e la terapia di gruppo, perché il LARP coinvolge le persone in un'attività di immedesimazione e, come dire, in questo modo conservano il potere trasformativo che viene riconosciuto tanto al teatro quanto evidentemente anche ad alcune pratiche di terapia di gruppo. E non solo, nel senso, appunto, come dicevo prima, nel gioco dell'ARP non c'è soltanto la fase del gioco, ma c'è anche la fase prima del gioco e dopo il gioco, cosa che per esempio nel teatro non c'è così tanto. Dopo che sei andato in scena, vai a cena, ecco, e gli attori si tengono tutti i traumi che hanno sviluppato nel frattempo. Però quello che mi interessava, di cui mi interessava parlare con te in questi episodi, era appunto la tua esperienza in quanto facilitatore rispetto al fatto che il LARP è scandito da momenti che sono momenti che servono in qualche maniera a rendere consapevoli i partecipanti, di una serie di confini importanti. E appunto, per cominciare questa riflessione, tanto perdonami la voce, per cominciare questa riflessione, c'è una domanda, come dire, importante che secondo me è ancora precedente, cioè perché uno dovrebbe fare il gioco di ruolo dal vivo? Il teatro lo fa, come dire, per spirito artistico, la terapia la fa, per cura. Il LARP che è lì in mezzo, nessuno ti costringe a farlo, è un gioco, però in certe declinazioni del gioco ha questo appunto, questo desiderio, questo proposito di trasformarti, quindi non è un secondo livello, è uno degli scopi del gioco, addirittura non c'è vincere, ma c'è partecipare, perché una persona dovrebbe buttarsi a fare una cosa del genere? Qual è, cioè, anzi, voglio chiarire, la mia domanda è un po' diversa. Nella tua esperienza, perché non ne voglio fare un discorso di massimi sistemi, nella tua esperienza, le persone che tu hai accolto in quanto facilitatore dei giochi di ruolo dal vivo, perché erano lì? Cioè, cosa li ha spinti a partecipare? Ora, secondo me la cosa più interessante sono veramente le ultime esperienze, cioè mi vengono in mente sia il fatto che ti avevo anche raccontato che da un paio d'anni ho partecipato direttamente allo stand della Chaos League a Lucca Comics, e lì ovviamente vengono centinaia di persone nell'arco di tutto il weekend, sapendo che possono fare un'attività gratuita e un gioco che non li impegnerà per più di un'ora, un'ora e mezza. E alla fine molte persone chiaramente si avvicinano comunque senza sapere di che si tratta. E lì c'è anche l'attività di divulgazione, cioè spiegare di che si tratta e fare capire perché potrebbero scegliere di fare quell'attività. Quindi quella è proprio una cosa che a me è piaciuto da sempre tantissimo fare, cioè tu non lo sai perché ti stai avvicinando, perché sei attirato dal bandierone colorato, perché sei attirato dal fatto che ci sono due persone fuori da una porta dove non ci dovrebbe essere nulla, con dei volantini in mano e che parlano con della gente, anche con fare particolarmente enfatico. Perché qualcuno te ne ha già parlato, ti ci ha portato. Queste effettivamente sono tantissime possibilità. Perché lì è l'accoglienza del gioco per il gioco. Non mi aspetto nulla se non di fare un'attività giocosa. E oltretutto le proposte che vengono fatte non sono soltanto leggere e spensierate. Ci possono essere anche delle proposte magari un pochino più forti emotivamente. C'è un po' di tutto. Quindi in realtà la scelta di andare in una direzione o nell'altra la stai facendo perché effettivamente ti viene prospettata la possibilità di fare un gioco che non hai mai fatto. Quando diventi l'ARPer, per così dire, no, non perché c'hai il patentino, perché cominci a appassionarti, ne fai uno e poi ne fai un altro. È una cosa per cui girano i meme, gli sticker nelle comunità, è l'ora delle piagne. Cioè, il vero LARPer si diverte se fa qualcosa che, per cui la battuta è per cui piange tutte le sue lacrime. Quindi si crea i traumi infantili da adulto. E Questa è secondo una te situazione. perché? Nel senso, le persone che hai incontrato cosa cercavano? Cioè, cosa stanno cercando in questo bisogno di scaricare? Ma guarda, è un discorso che poi alla fine io quantomeno non ho mai fatto. Ci può essere, però questo è un'analisi che ha fatto una mia amica, ciao Alessia Pelonzi se ci ascolti, e anche sul magazine che abbiamo fatto uscire per ILF. E per alcuni ci può essere anche la FOMO. Il fatto che tu debba partecipare perché mi sto perdendo qualcosa. Questo ci può pure essere, eh? Ci può Sì, pure essere. ci sta. Questo soprattutto dopo un po'. All'inizio questa cosa tu non la sai. Qual è la differenza? Cioè, come hai visto tu che magari hai accompagnato questi neofiti al gioco di ruolo dal vivo? Naturalmente parliamo di quello un po' pochettino più carico, però, cioè, magari anche in quello un po' meno carico. Cioè, che persone sono all'inizio che appunto, vabbè, le persone che sono all'inizio in realtà l'hai raccontato, persone spensierate a Lucca che decidono di fare un'esperienza un pochettino più strong, ecco. Tra l'altro, se il gioco è di, cioè, se il gioco li impegna un'ora e mezza, vuol dire che non è neanche la più strong del catalogo. Però pur sempre strong. Qual è, cioè, cosa hai visto nella tua esperienza dopo, quando hanno finito di fare il gioco quello strong? Tendenzialmente, comunque, persone che uscivano con sicuramente la voglia di ringraziarci perché Ok. gli avevamo dato la possibilità di fare una cosa che non si aspettavano. In tantissime occasioni ci siamo fermati a parlare a lungo anche dopo. Certo. E quindi anche quello è bello. Poi ecco, una delle cose secondo me più belle da facilitatore in quel caso è che in realtà sviluppi nei giocatori il continuare a parlarne. Certo. E poi la cosa bella è che a volte mescoli dei gruppi perché vengono due, una viene una coppia di ragazzi, ma non c'è un gioco da due. Allora, ragazzi, vi va di aspettare altre due persone? E così giocate assieme e poi li vedi che escono perché hanno contribuito a costruire una esperienza comune. E quindi non finisce lì, finisce almeno qualche passo dopo. Però intanto hai creato una connessione. Quando tu, come dire, e magari parlando anche di LARP più sofisticati, più impegnativi, ti trovi nella, come dire, nella situazione in cui state cominciando il gioco e quindi c'è, come dire, quella parte che, di cui parlavi prima la volta scorsa di workshop, no? Per cui in qualche maniera introduci le persone all'argomento del gioco. Qual è, nella tua esperienza, la parte, cioè quegli aspetti che effettivamente hanno bisogno di più lavoro? Nel senso, in che cosa il giocatore che si avvicina all'ARP è più carente, perché naturalmente è un'esperienza nuova e in qualche maniera deve essere davvero reso consapevole di quello che sta per accadere. Per chi si avvicina per la prima volta, per me la cosa più importante è essere molto chiaro su quelle che saranno le regole, quindi i limiti entro i quali si deve muovere. Esatto, nel senso, ok, tipo. Vabbè, tipo il fatto che intanto come si scandisce il tempo? Questo Ok. è un tema che avevamo già toccato. Però nel momento in cui non è detto che tu abbia una regolazione esterna della fine, e anzi tipicamente sul Chamber LARP non c'è, perché inevitabilmente sono scritti per essere gestiti da un gruppo potenzialmente anche senza un facilitatore. Quindi ci deve essere un'autoregolazione. E capire cosa puoi fare o cosa è meglio che tu non faccia. Quindi tutto il concetto della safety di cui abbiamo già parlato, anche lì, qual è il livello di spiegazione che devi usare? In un'esperienza da un'ora, probabilmente ci sono delle volte in cui non hai neanche dei grossi racconti. Ma lo stesso. Se ci sono dei temi che potrebbero effettivamente andare a toccare delle corde della persona, ma come faccio io a non mostrarti almeno l'uscita di sicurezza? Ma infatti io mi chiedevo quali sono quelle cose che in un, non, diciamo così, in un brief pregame devono assolutamente essere menzionate. Cioè, cos'è che non puoi assolutamente dimenticarti di dire ai giocatori prima di entrare in un LARP? Tutto quello che c'è scritto. Cioè, no, il problema è che se c'è scritto, te lo devo spiegare. Ok, ma per esempio. Allora, come si creano le relazioni? Te lo devo spiegare. Cioè, perché se è scritto, vuol dire che fa parte della meccanica e della logica. Come saranno strutturate le scene, quante ce ne saranno? Il gioco delle Spice Girls c'ha un 27 scene, mi sembra di ricordare. Sì, 27. sì. Sì, perché vai a ripercorrere tutta la carriera delle Spice Girls. Quindi in realtà anche il pre-brief è scriptato. Sì. Cioè, di fatto il regolamento di un LARP ha tutta una parte di indicazione che tanto per i giocatori quanto per il facilitatore. Ok. L'unica parte che il facilitatore potrebbe anche non essere tenuto a conoscere sono le varie schede personaggio. Perché lì invece ci sono delle cose che tu stai dicendo al singolo giocatore: questa è per te, sei tu che devi esserne consapevole. Quanto è lungo, quanto è profondo il contenuto di quella scheda. Chiaramente vorrà dire semplicemente che ti darà più o meno indicazioni, però quello è scriptato tanto quanto le informazioni che il creatore del gioco dà al facilitatore su come si deve sviluppare il gioco. ti avevo raccontato di Desaparecidos, comunque c'è un'indicazione molto chiara di le scene devono essere sempre eseguite con queste tracce audio. Perché sono la guida. E per esempio, quando si tratta di, restando sull'esempio di Desaparecidos, quando diciamo ci si occupa del fatto che Desaparecidos è un gioco di corpo, quindi di movimento, di contatto, di incontro fisico, non si parla in Desaparecidos. Cosa spieghi ai giocatori prima? Cioè, quali sono le cose? Tipo, che tipo di passi e che tipo di indicazioni sulla interazione tra persone tu dai nel momento in cui stai per iniziare questo gioco? In realtà è esattamente quello che hai appena descritto tu. Le scene saranno tutte quante di movimento senza parole. L'unico momento in cui avete la possibilità di scambiare delle parole è all'incontro tra presentes e ausentes. Quindi gli sto già dando le indicazioni. Poi gliele ripeto 20 volte, anche perché a fronte di più di un'ora di workshop e di un'ora di gioco, ha voglia ricordarti alla fine del gioco qual è il segnale che sta finendo il gioco. Te lo devo probabilmente ripetere per darti un'indicazione più chiara possibile. Le informazioni fondamentali che devono essere date devono essere proprio quelle di come si inizia, come si finisce, e poi in realtà sarà la meccanica stessa a portarti nel gioco. Quindi molto probabilmente già la scheda stessa ti dirà tante cose di te. Quindi diciamo, ecco, le cose importanti dovrebbero secondo me sempre essere queste: come si inizia, come si finisce, e dare chiaro, questo pure un'altra cosa, dare chiaro se ci saranno degli interventi da parte del facilitatore Ok, e per se il esempio. facilitatore è presente oppure no. Per esempio, ti avevo raccontato di Winston Green Prison, e il facilitatore ha un ruolo all'interno della scena centrale proprio per la meccanica del gioco in sé. Quindi de deve intervenire relativamente al gruppo delle donne in carcere. Quindi, adesso senza andare a dare ulteriori indicazioni, però è un'informazione che, per quanto un gruppo di giocatori esperti potrebbe cogliere, alla stessa maniera vale la pena dare in esplicito, perché non ci sia quello switch tra l'in-game e l'off-game. Ok. Cioè, è anche per dare, secondo me, tutto il contesto che può aiutare i giocatori a viversi completamente l'esperienza immersiva. Perché? Certo. Dimmi. Qual è la roba che ti ha messo più in crisi nella tua esperienza fatta da giocatori? Cioè, dov'è che dici, oddio, adesso questi qua faranno questa roba qui e mi tocca ogni volta rindirizzarli, mi tocca ripetere, cioè dov'è che hai bisogno di picchiare più duro, soprattutto all'inizio del gioco? Ho adottato comunque uno stile per cui, se il gioco va in una direzione che non era quella che mi ero messo in testa, lo lascio andare. Quindi non esi cioè, esiste un modo di giocare male l'ARP? Ma più che giocare male, può essere che mi era capitato qualche anno fa su un LAUG, quindi un LARP online. Non mi ricordo se era stato proprio durante il Covid, però sicuramente era durante un festival online, e in cui ho facilitato e avevo dei giocatori e giocatrici che sono andate in una direzione che non era, non è, cioè proprio a livello di relazioni loro, non era quella ipotizzata dalle meccaniche. Non ho spiegato bene io? Non hanno colto loro? Non è dato sapere. Fatto sta che l'esperienza di gioco loro, comunque, era quella. Era un'altra cosa, va bene, però non è che per questo motivo debba essere sminuita. Ok. Domenica, che è il motivo per cui sono anche malato, domenica all'interno di un corso che ho seguito, adesso stiamo facendo un percorso di alunni con appunto persone che hanno frequentato questo corso e quelli che lo stanno frequentando adesso, ho proposto appunto un piccolo chamber LARP che doveva avere anche l'utilità di rimescolare un attimo le carte, perché c'era gente che partecipava per la prima volta dal vivo a questi incontri. E ho fatto giocare un freeform che si chiama Un tranquillo posticino all'inferno, per cui si parte dal presupposto che tutti morti, a tutti appena morti, stanno per entrare all'inferno, perché questa era la loro destinazione, e hanno la possibilità di vedere e comprare una casa da un diavolo immobiliarista, che già per me è geniale e surreale come lo desidero. E l'esperienza di gioco per qualcuno, come ho raccolto dal debriefing, non è stata particolarmente coinvolgente. Qualcuno mi ha anche detto che non aveva capito quale fosse lo scopo del gioco. Va bene così. Non sono stato chiaro nel dare le indicazioni di quello che serviva, non sono stato coinvolgente, va bene, lo prendo come feedback per me, però l'esperienza che avete fatto è proprio quella lì e io non la devo negare. Come nel momento in cui tu hai introdotto le persone al gioco e quindi hai esposto, diciamo, le regole, i ruoli e i meccanismi, hai come riscontri che sia il primo impatto col gioco? Cioè, come. Soprattutto, vabbè, parliamo delle persone meno esperte, perché quelle esperte chiaramente si tirano sulle maniche, hold my beer, e chiaramente si mettono a giocare come se lo facessero da sempre. Però l'impatto invece con quelli nuovi, qual è, come dire, qual è la tua impressione rispetto al fatto che a un certo punto sostanzialmente lo vesti con degli abiti completamente nuovi e gli dici: guarda, toh, sei un'altra persona adesso. Cioè, quali sono i passaggi? Cioè, cosa accade in quel momento? Come si verifica Ti dirò, l'immersione? non ho mai avuto problemi anche con gente che non aveva mai giocato relativamente all'immersione, a qualunque livello. Al massimo è più una questione di quanto la tua necessità di controllo fa sì che tu sia meno orientato al play to lose, al fatto di giocare per il gusto di giocare e non e quindi non vai in quella modalità per cui comunque con la tua testa fai dentro e fuori da quello che stai vivendo a quello che tu pensi di vivere. Credo che sia molto di più quanto proprio la tua giocosità ti porta ad accettare quello che stai vivendo. E per esempio in un gioco come Si Vendono, no? Che comunque affronta dei temi così impegnativi, qual è, diciamo così, il rapporto tra le persone e la cosa che stanno vivendo? Cioè, tu che magari hai avuto modo anche di vederlo dall'esterno, qual è il modo in cui in qualche maniera. E qui, come dire, c'è un aspetto importante del gioco di ruolo da vivo, cioè il fatto che sei una persona e sei un personaggio allo stesso tempo. In che maniera la persona in-game elabora quello che sta vivendo il personaggio? Cioè, Ah, meglio. In che modo lo faccia? Non riesco a dirlo perché è se, troppo personale. certo. Senza il workshop penso che sarebbe impossibile. Cioè, il tempo del workshop è proprio il tempo che ti permette di entrare in quella roba lì. Perché ti permette di misurarti con un altro te, in un altro contesto, in un altro tempo. Con delle altre regole di vita, perché puoi essere tu stesso, ma se sei appena morto, sei una divinità greca, sei un minatore nordamericano rinchiuso in una miniera, sono tutte situazioni in cui si spera tu non sia stato. No, certo, ma così a occhio e croce, secondo me, se lo sei stato, difficilmente poi vai a fare un LARP per rifarlo. Esatto, tra le altre cose. Quindi, a parte quello, è proprio l'idea di accetto le regole di un gioco che non conosco, che sto per conoscere. È una cosa a cui penso sempre. Conosco tante persone che penso che sia capitata anche a te. Che anche di fronte a un gioco da tavolo, un gioco di carte, così facciamo un giro di prova. Ti capita di avere a che fare con Sì, persone che ti certo. dicono: lì non ce l'hai il giro di prova. No, infatti è per questo che ti dicevo, cioè ci deve essere, come dire, la mia domanda era rispetto al fatto che mi sembra abbastanza impossibile, cioè a sto punto invita me a fare un LARP e lo vedrai, cioè è impossibile che ci sia zero imbarazzo quando si inizia a No, giocare. Ci ah sarà un no. momento in cui ci si annusa, ci si sente anche in difficoltà rispetto a dire una cosa o a fare una cosa perché sì, mi hai appena spiegato le regole, io le so, però chissà se poi effettivamente la sto facendo giusta. Ci sarà il giocatore che va dritto per dritto, infatti è quello che mi interessa a me, no? Cioè, quanti giocatori ci sono? Che tipi di giocatori ci sono? Chi è che ti mette in crisi? Quello timido o quello troppo aggressivo? Rispetto all'aggressività, quanto si può essere aggressivi dentro l'app? Cioè, hai avuto a che fare anche con situazioni dove hai dovuto dire alle persone: sì, però adesso stai calmo. Sì, più da giocatore in realtà, ho avuto a che fare con quelle che per me diventano prepotenze. E quindi c'è molto ego, voglio portare il gioco per forza dove dico io. Mi è capitato di avere a che fare con persone che hanno fatto delle proposte che non erano direttamente all'interno di quello che era la storia, che è una soluzione molto interessante, ed è una cosa che io invidio tantissimo, cioè la capacità di, in quel momento lì, di dire anche: e cosa succederebbe se aggiungessi quest'altro elemento? Anche perché tutto sommato immagino che io questa cosa la sto vivendo col gioco di ruolo, quello tradizionale, dove però, come dire, sto tanto riflettendo e giocando su quanto Francesco e il personaggio che gioca Francesco siano in relazione e anche un po', come dire, in dialogo. Quindi a volte è difficile essere il personaggio che gioca Francesco e a volte è lo stesso Francesco che in qualche maniera imposta il personaggio. E da questa tensione ne derivano anche gli esperimenti. Cioè, allora proviamo a vedere se voglio essere coerente col mio personaggio, devo essere il mio personaggio. Vabbè, allora adesso faccio questa cosa qui. Perché voglio vedere anche il tavolo come reagisce, no? Voglio anche mandare un po' fuori giri i miei compagni di squadra, però per stimolarli, no? Per costringerli a loro volta a essere creativi con me. Esiste questa cosa in in un ambito come l'ARP? Sì, infatti ti dico, è una cosa che, per quello che ti dicevo, che io invidio molto, perché io probabilmente gioco molto educato, tra virgolette, per cui secondo me un aspetto fondamentale è quello dell'ascolto attivo, cioè dove ti posso portare a te giocatore. Se io sono un altro giocatore, ti posso portare fin dove tu mi consenti. Ti conosco abbastanza bene da poter prendere delle decisioni di questo tipo, o faccio uno strappo perché l'importante è che io mostri l'idea figa che ho avuto. Beh, bisogna trovare sempre un compromesso, no? Certo, però di nuovo sono compromessi che puoi trovare se ti senti anche in grado di farlo. E non è mai semplice anche prendere una decisione, perché chiaramente, spesso e volentieri, se tu hai l'idea effettivamente sopra le righe, è facile che tu ne vada a parlare anche con gli organizzatori e con i facilitatori. E a quel punto diventa anche difficile. Cosa faccio? Ti dico no, proprio non Quindi è il caso, ti dico può lascia perdere. capitare che ti si avvicini uno un po' così dicendo vabbè, adesso rompo un po' la quarta parete, diciamo, rompo un po' la finzione, ma semplicemente per venirti a chiedere, ma io se dicessi questa cosa qui. Esatto, sì. È plausibilissimo. Ecco, la differenza, secondo me, la fa il capire se quello che stai portando è per te o è per gli altri. Perché, come hai detto tu, è chiaro che se diventa una co-creazione, diventa un dialogo, voi in quanti siete quando giocate di ruolo? Ah, noi siamo quattro giocatori. Perfetto, quattro teste, chiaramente le metti d'accordo perché avete un certo tipo di anche di dialogo. Sì, poi abbiamo Mettere. iniziato da poco, quindi c'è tutto, siamo ancora però anche questo è interessante. Noi siamo un gruppo regolare, stiamo adesso cominciando effettivamente a scoprirci. Laddove Esatto. magari in queste esperienze qua ogni volta il gruppo è nuovo. Quindi, Esatto. nel senso, la cosa affascinante, almeno quello che io che mi prenderebbe molto se fossi io, come dire, appunto, non tanto un giocatore, ma un osservatore, perché poi chi facilita, immagino, passi un sacco di tempo a guardare più che ad agire, è proprio vedere come le persone si incontrano, perché non potrà mai essere un incontro spontaneo, cioè stai comunque di nuovo indossando i panni di qualcun altro, quindi innanzitutto devi essere bravo a usarli e quello già ti richiede un extra sforzo rispetto ai tuoi panni normali. E poi suppongo, immagino che ci sia anche, come dire, la capacità di riuscire a reagire, nel senso, cioè c'è la voglia di essere quel personaggio, ma anche la scarsa abitudine a esserlo, diciamo. Sì, anche perché poi tanto non è detto che sia un personaggio che vivrai molte altre volte, Ah anzi, no, infatti, tendenzialmente, infatti. se Quindi c'è giochi una pure voglia di campagna, farlo sì. bene. Esatto. Quindi sì, ti dico, è più facile che entrino in gioco altre modalità, tipo una cosa che succede regolarmente in quasi tutti i LARP che ho giocato. È che a un certo punto parte il complottismo. Ah Il sì. complottismo è il modo migliore per cui 50, 80, 100 persone improvvisamente vanno in una direzione. Cosa si intende per complottismo? Che all'interno della storia parte il virus del sospetto, cioè che c'è qualcun altro, magari anche dei giocatori che secondo me ne sa di più di noi e ci tengono nascoste le cose. Quindi c'è il sabotatore, diciamo. Sì, che però in realtà non c'è quasi mai, anzi, tendenzialmente non c'è mai, perché è quell'approccio che abbiamo noi di dire: ah, ma voi avete fatto gruppo A, avete fatto una certa azione che noi, con le informazioni di cui disponiamo, interpretiamo come un ci state nascondendo le cose. E di queste cose poi alla fine se ne parla, cioè quando c'è il debriefing saltano fuori. No, se ne parla direttamente. Tipicamente queste cose poi avvengono nei LARP immersivi, si svelano direttamente in gioco, proprio per via del fatto che vai ad affrontare le persone, perché sai da giocatore che il tempo non c'è, quindi queste cose le devi tirare fuori, devi giocare veramente al massimo della velocità perché non hai 20 anni davanti, hai 2 o 3 giorni, quindi se ci sono dei segreti, se ci sono effettivamente delle manovre sotterranee, queste bisogna che vengano fuori per fare gioco. E per esempio a fine gioco non c'è una situazione in cui un giocatore si avvicina all'altro e dice: oh, scusami, pensavo veramente che ci fosse questo, questo e quest'altro, e poi. Oppure un altro No, dice: vabbè, certo. Madonna, ci sei andato giù pesante, com'è? Cioè, cose così. Sì, assolutamente, anzi, assolutamente sì. Ma questo penso che sia il bello del fatto che alla fine di tutto si possa ridere assieme, si possa festeggiare il fatto che si è vissuto un'avventura assieme e quindi ci si può dire con tutta la serenità del mondo: Madonna, che stronzo che sei stato. Sì, ma Ok. penso che sia una delle ricchezze più grandi, cioè l'arrivare a dirsi serenamente, ma ridendo e piangendo, quanto avrei voluto che finisse, anche che finissi male. Cioè, ho visto dei personaggi veramente stronzi, manipolatori, gente che ha fatto le peggio cose, ma chiaramente adorati come giocatori perché avevano creato una marea di gioco. Cosa vuol dire creato una marea di gioco? Se io ho una relazione forte con te, di qualunque tipo, quindi io e te non ci sopportiamo, ci vogliamo bene, ci siamo voluti bene, ma ci stiamo ignorando e non riusciamo a riavvicinarci. Adesso tante opzioni. Io ho avuto una relazione, tra l'altro, appunto da PNG con un'altra giocatrice in cui lei era sadica nei miei confronti e io avevo un rapporto masochista. E in fase di workshop mi disse: no, ma io ho paura di andarci pesante, non. Te non ti preoccupare, tu vieni dietro a me, reagisci a me. Poi forse te l'avevo anche raccontato. Io tutte le volte che potevo, soprattutto la mattina quando ci trovavamo a colazione, comparivo con delle fasciature o dei cerotti o dei tagli diversi. E quindi potevo far vedere che era lei che mi aveva chiesto di fare certe cose. Quindi avevi usato, come dire, un espediente di scena per introdurre, diciamo così, la possibilità di un racconto e di un'interazione di un certo tipo. Esatto, Io e volevo questo farti, chiaramente. visto che Vai sono dimmi. le Sì. 8 di sera e siamo vicini alla conclusione, volevo farti una domanda che non ti ho fatto, ma secondo me è una domanda che adesso funziona bene. Nel documentario Fighting Demons with Dragons, Alla Sì. fine, in che modo i ragazzi sono stati aiutati dall'ARP? Cioè, qual è stato poi alla fine di fatto il ruolo dell'ARP nell'esperienza di questi giovani? Lo strumento tramite il quale hanno trovato libertà nell'esprimere se stessi. E libertà anche di vivere le relazioni. Alla fine, poi era quello che dicevamo anche all'inizio, il grosso del focus, ed è il focus di fatto anche nell'ARP stesso, sono le relazioni. Perché noi di fatto poi quello che facciamo sempre con chiunque, sì, è vero che noi facciamo assieme, però la vera questione è che lo facciamo come? Quindi creando quale connessione con ogni singola persona. Dare strumenti per vivere questo è forse effettivamente la ricchezza più grande che possono aver appreso. E questa è una cosa che riscontri anche nella tua di esperienza come giocatore dal vivo? Sì, decisamente sì. Ho visto persone a cui voglio molto bene che hanno creato delle relazioni fortissime con altre persone dopo aver giocato un LARP, dopo aver giocato una relazione molto forte in gioco. E è una cosa che chiaramente ho fatto anch'io. E questo è inevitabile perché lo hai fatto perché hai avuto un certo tipo di relazione che ti ha permesso di sentirti legato a qualcuno. Bene, e ci torneremo. Ci torneremo perché, come hai capito, è proprio la mia fissa più brutta questa. E perché, d'altronde, come dire, in chiusura ti darò questa informazione. Radio Antidoto ormai esiste da parecchio, esiste da 5 anni, ci siamo incontrati, anzi sei, quasi 6, visto che ci siamo incontrati. A marzo saranno 6 anni che esiste questa radio, visto che è nata col Covid. E uno dei concetti fondamentali che peraltro appunto in questo periodo mi capita di affrontare anche in altri formati, in altri format, è proprio il discorso che attraverso queste attività, che sono attività performative, ci trasformiamo il mondo attorno a noi, ma ci trasformiamo noi per cominciare. Quindi, come dire, alla fine. Poi la caccia con il lanternino è sempre quello, no? Al processo alchemico che si nasconde dietro a certe attività. Ma il nostro tempo è concluso, caro Stefano. Ti ringrazio di accompagnarmi in questo viaggio. Guarda, sono io che ti ringrazio perché, come sempre, mi fai girare le rotelle in testa e quindi per me è sempre un piacere questo. Come se fossi una bambola. E Grazie auguriamo una buona serata ai nostri carissimi ascoltatori del presente e anche a te, caro ascoltatore del futuro, che ci ascolterai in macchina con le cuffiette col podcast. E naturalmente l'appuntamento è tra un mese circa, quando riusciamo a organizzarci, Stefano, con la sesta puntata di Giochi di Tutto, quando potremo dire con orgoglio che siamo arrivati oltre la metà. Bene, quindi no, non ci resta che vedere quale sarà il prossimo passo che ci condurrà oltre il guado. Vado con la sigla? Sigla. Andiamo con la sigla. Buona serata. Avete ascoltato Giochi di tutto. Tutto col gioco e niente per gioco. Di Francesco Rigori e Stefano Giacchè.